l'altra Europa. Benvenuti all'altra Europa in diretta dagli studi di Radio 24, la nostra finestra settimanale sul continente europeo, sulla cultura europea. Cerchiamo così di darvi altre letture, altre sfaccettature. Non partiamo dai palazzi, partiamo dalle storie, partiamo dalle persone, partiamo dalla gente e prendiamo alcune delle notizie della settimana e andiamo a capire quelle che sono le ricadute sui cittadini. Siamo in diretta, l'altra Europa @radio24.it, se volete scriverci via email oppure via sms al 349-238-6666. Oggi partiamo dalla Spagna, partiamo dalla Catalogna, partiamo parlando di corrida. Non è la prima regione ad averlo fatto in Spagna, perché nell'arcipelago delle Canarie dal 91 mi pare sono state vietate le corride, ma la Catalogna ha detto no. La decisione del Parlamento catalano è passata con 68 voti a favore, 55 contrari e 9 astensioni. Personalmente sono anche felice, perché lo trovo uno spettacolo aberrante, però la popolazione spagnola è divisa in due, tra gli animalisti e tra chi invece vorrebbe mantenere la tradizione. Se ne è parlato tanto sulle testate di tutta Europa. Volevamo capire quello che è il polso della situazione nelle strade, quello che dice la gente in Spagna. Quindi abbiamo convocato un giornalista in collegamento in diretta da Barcellona, Marcelo Aparicio, corrispondente di France Press appunto da Barcellona. Ciao Marcelo. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Una Barcellona particolarmente attiva, come ogni giorno dell'anno, perché insomma è una delle città più vive d'Europa, ma in questi giorni ci sono anche gli europei di atletica. C'è gente, si sente che c'è questa importante manifestazione? Sì, sì, come tutto sempre si sente, perché ci sono sempre due o tre cose diverse a Barcellona, che per il nostro lavoro è terribile, perché dobbiamo triplicare i nostri sforzi, ma è una città molto di molta vitalità ultimamente. Insomma, è una delle città più ambite, una delle città dove soprattutto le persone che scappano, tantissimi dall'Italia, decidono di cambiare vita e scelgono proprio Barcellona come meta per questa nuova vita. Sì, soprattutto i giovani, pieno di giovani italiani, all'estremo che la comunità più voluminosa a Barcellona è recentemente ha passato a essere quella italiana, un po' perché si sono aggiunti gli italiani latinoamericani, no? Sì. Ma gli italiani è dappertutto, e anche abbiamo un privilegio qua che, a mia considerazione, si trovano i migliori ristoranti italiani dell'estero qui a Barcellona. Insomma, quindi e questa cosa al giornalista, vero, che a Barcellona non dispiace, mi pare di capire. Appunto. E Marcelo, ma è una leggenda metropolitana che Barcellona sia una città così viva, così attraente, così piena di nuove possibilità, o è vero? No, è vero, è vero. È vero, perché si danno, prima, scusate, di niente. C'ho come un eco, ma spero che voi non vi disturbe, io mi sento parlare. No, tranquillo, per noi è ottimo. Sì. No, è soltanto la sua ubicazione vicino alla Francia, come vicino ai Baleares, c'è la montagna, c'è il mare, la fauna, una città molto attraente. Già dico, non soltanto i giovani, ma a molta gente che viene qui a vivere l'esperienza e che finalmente rimane, no? E insomma, abbiamo tratteggiato un piccolo quadretto di Barcellona, abbiamo sfruttato il fatto che tu insomma conosci molto bene la città. Però Marcelo, ti abbiamo invitato per parlare della corrida. La Catalogna l'ha abolita dal 2012, gli spettacoli saranno vietati. Qual è stata la reazione dei catalani e degli spagnoli? La reazione proprio il giorno dopo la votazione, il giorno dopo la notizia? Sì, la decisione è storica. Un po' si aspettava, perché stava cadendo un po' l'interesse per le corridas qui a Catalogna. La plaza era ogni giorno più vuota, era riempita di turisti piuttosto. Ma sì, la mia opinione è che si dovrebbe aver fatto di un'altra maniera. Sta bene che siano vietato, perché è orribile, ma si dovrebbe aver fatto di un'altra forma, perché è caduto in un momento che non è il migliore. Allora la polemica è viva adesso e si è spaccato un po' la società in due, no? Non tanto la catalana, che è abbastanza d'accordo con questo, il risultato è abbastanza rifletto di quello che pensa la società, sì. Sino che stanno certi settori, come sempre, stanno vedendo di politizzare la questione. La decisione, certo. E non va per quel lato, no? Era una questione animalista che è diventata una questione identitaria secondo i detrattori, ma questo durerà fino alle elezioni, almeno, che sono all'autunno prossimo. E Marcello, allora ricordiamo che il 25%, solo il 25% degli spagnoli, secondo alcuni recenti sondaggi, seguono le corride, e sempre meno sono i giovani che seguono questo spettacolo, che è prevalentemente per i turisti. Ho votato contro l'abolizione perché credo nella libertà e avrei preferito che il proseguimento o meno delle corride fosse deciso tranquillamente dai costumi sociali dei catalani. Lo ha detto il premier socialista della Catalogna, che appunto ha votato contro l'abolizione, perché questa cosa di impedire, di vietare, ha scatenato un po' la rabbia dei catalani, vero Marcello? Ok, erano d'accordo per l'abolizione della corrida, però uno spettacolo che anche tu ci hai detto poco fa, il cui interesse stava scemando, questa cosa che sia stato vietato per legge non è piaciuta? No, non è piaciuta a molti, perché spacca un po' tutto, perché è una misura nel fondo progressista, ma c'è molta gente progressista che non è d'accordo con la proibizione, avrebbe preferito una regolazione, aspettare le elezioni, non mischiare in questo momento tanto di tanta pressione, perché non dimentichiamo che due settimane fa o tre c'è stata una grossa manifestazione per l'indipendenza contro la sentenza del Tribunale Costituzionale dell'Statuto. Dopo, al giorno seguente, ho un'altra polemica, perché si è inondato di bandiere spagnole nella Sacra Catalogna per il trionfo del calciatore, del sì. Football. E adesso questo, allora dopo le elezioni, e vedremo le elezioni come condiziona il governo centrale, perché sono molto chiave le prossime elezioni. Allora tutto questo, a questa Catalogna che sempre era tranquilla, quieta, più casi di corruzione, di cose, è cambiata totalmente, è come una era una ragazza che giocava dolcemente e d'un colpo è diventata un'impresaria isterica che si muove, che va, viene, politica, eccetera. Bella come immagine. Marcello, so che i francesi invece, insomma, hanno seguito con interesse questo divieto, vero, della corrida? I francesi sì, perché ci sono parecchie cose. Per i francesi gli animalisti approfitteranno per fare la lotta in Francia. Ma in Francia, il sud della Francia approfitterà di questo, perché domenica si fanno corridas a Nîmes, a Perpignan, a Arles, a Ceret, e allora di una maniera si approfitteranno. Già i ganaderos, quelli che del bestiame, stanno vedendo di lavorare più con la Francia, perché qui questa zona già è vietata. Ok, quindi no? Insomma, basterà varcare il confine e si potrà trovare da lavorare. Marcello, ci salutiamo qua. L'ultima domanda: cosa fa il giornalista di sabato a Barcellona? Oggi lavori o sei in vacanza, sei in ferie? Oggi no, sono in ferie e approfitto per andare al mercato e fare le spese della settimana, dei buoni prodotti, il pesce, la carne, eccetera. E anche per casualità devo trovare un amico italiano che non vedeva da 27 anni e me lo sono trovato per caso qui a Barcellona. Insomma, peccato non poter seguire in diretta questo incontro. Ciao Marcello, buon sabato e buona estate. Ciao, tante grazie. Saluti. Europostet. Bimbi inglesi a dieta. A Doncaster, la città conosciuta come la più grassa del Regno Unito, è nato il primo club per bambini obesi. Per insegnare a mangiare meno e meglio, questo club organizza incontri settimanali per bambini e genitori e li segue anche a distanza via mail e telefono per controllare e aiutarli in questa rieducazione alimentare. L'altra Europa. Questi sono i nostri europostiti, indicazioni, spunti, notizie che vi diamo ogni settimana. Vi ricordo che anche voi potete segnalarci o potete proporci temi per l'altra Europa. Potete farlo via email, l'altraeuropa@radio24.it, oppure, visto che siamo qui in diretta, anche via sms al 349-238-6666. Cambiamo completamente argomento e anche zona. Andiamo in Germania e parliamo di un'iniziativa lanciata dal Goethe-Institut Italien in collaborazione con l'Istituto di Cultura di Berlino. Hanno dato la possibilità a 3 studenti italiani di inventarsi reporter, di sperimentarsi giornalisti sul territorio, e abbiamo con noi uno dei 3 giornalisti in erba che ha vinto il concorso. Si chiama Gabriele Perrone, ha fatto un bellissimo reportage che è pubblicato su 7 di questa settimana, intitolato Vuoto a rendere. Ha scoperto un sistema che permette di portare biglietti in vetro, in plastica, in cambio, in una macchinetta, in cambio avere qualche euro. I senza fissa dimora di Berlino, che ha seguito lui, stanno ottenendo notevoli vantaggi da questa iniziativa. Ciao Gabriele, benvenuto all'Altra Europa. Ciao a tutti. Allora Gabriele, sei stato in Germania per quanto tempo? Sono stato per una settimana a Berlino. Uh-huh. Ma tu sei uno studente di cosa? Ah, ho studiato lettere all'università e qui a Milano, mentre adesso sono un giornalista. Ah, quindi sei già giornalista di professione o aspirante? Sì. Ok. Sei stato una settimana per partecipare appunto a questo concorso. Come mai hai scelto proprio il vuoto a rendere come tema del tuo lavoro? Ma guarda, qui diciamo che devo ringraziare anche la mia fidanzata, nel senso che andando a trovarla in Erasmus, quando lei era in Erasmus a Colonia, ho visto questa pratica da parte dei senza tetto. Mi ha un po' colpito perché da noi non succede. Praticamente andando tranquillamente in giro per la città, in qualsiasi città tedesca, si vedono questi clochard che vanno in giro, guardano nei cestini in cerca di bottiglie e poi se le portano via. E mi chiedevo, insomma, perché? E perché alla fine c'è questo metodo che si chiama FUND, che consiste appunto nel vuoto a rendere. E portando delle bottiglie di plastica o di vetro nei supermercati, nei mini market, possono restituirle e guadagnare qualche soldo. Ma e questa cosa la possono fare solo i senza fissa dimora o possono farla tutti? No, tutti assolutamente. La gente, le famiglie raccolgono separatamente i materiali e poi li possono portare. La maggior parte delle persone comunque sono appunto i senza tetto, i pensionati, ma anche gli studenti lo fanno per arrotondarsi la paghetta. Infatti leggevo nel tuo reportage che per esempio c'è una sorta anche di agenda del dove andare, del quando andare. Per esempio in una zona in cui c'è stato un concerto è sicuramente situazione appetibile, perché c'è possibilità di trovare molte bottiglie. Certo, perché infatti a margine di feste, poi soprattutto quelle grandi come l'Oktoberfest, la Love Parade o altre, insomma c'è tantissima possibilità di trovare bottiglie lasciate o nei cestini o per strada, e loro appunto sono questi, i senza tetto diventano una sorta di spazzini. Quindi insomma, apparentemente un doppio beneficio, perché vengono pulite delle zone e si riesce a dare anche qualche euro che possono essere vitali per queste persone. Esatto, è anche un sistema sociale, fanno anche un servizio civico alla fine, perché puliscono le strade e contribuiscono anche alla raccolta differenziata. Certo, è una cosa che andrebbe applicata in effetti anche qua in Italia, con i problemi che abbiamo con i rifiuti. Ecco, e secondo te è un'esperienza replicabile? Da noi? Sì. Beh, direi proprio di sì, peccato che appunto ci sia sempre qualcuno che mette i bastoni fra le ruote. Ma è stato fatto qualche tentativo, non so, hai seguito la cosa, ti sei informato se in Italia... No, in Italia no, una cosa caratteristica dei paesi del nord, per esempio so che anche in Norvegia, in Finlandia, cioè si chiama Pandi al posto che Fund, e non so bene in altri paesi, comunque credo sia una cosa caratteristica del nord Europa. E, Gabriele, com'è stata questa esperienza? È più facile fare il giornalista in Italia o in Germania? Beh, diciamo che sono due cose diverse, anche perché qui sono andato comunque per un concorso in una città nuova, in una capitale europea, quindi c'è uno sguardo comunque differente. Però ecco, c'è da dire che l'esperienza è stata molto importante perché insomma, stare a contatto con degli stranieri, soprattutto appunto magari dei senza tetto, che quindi possono anche non essere molto socievoli, e poi in tedesco parlando una lingua diversa, insomma è stata un'esperienza davvero forte. Ma qua comunque se uno riesce a cavarsela ce la può fare, dipende insomma da cosa si riesce a concludere. Gabriele, e seguendo i senza fissa dimora, che Berlino hai trovato, che Berlino hai visto? Beh, una città di per sé molto, molto bella e poi anche aperta ai giovani, però ha ancora una caratteristica, io infatti l'ho scritto, diciamo è una cosa metaforica, che nonostante il muro sia caduto si avverte ancora una sorta di barriera, di confine tra le persone, tra chi sta bene e può permettersi appunto di buttare una bottiglia e chi invece è costretto a rincorrere per raccogliere le loro bottiglie e riuscire a guadagnarsi insomma, questo... qualcosa da vivere, per vivere. Però appunto dicevo che sapendo fare buon uso del fund, di questo metodo, possono trovare un modo, se non per riscattarsi, almeno per guardare dall'altra parte della barricata con un sorriso. Insomma, vuota a rendere anche come metafora di questa società nuova, sì, vivace, sì, sì, vitale, sì. Però con ancora problematiche antiche che si porta dietro. Gabriele, grazie davvero, complimenti per il tuo pezzo, ricordiamo. Prego, si intitola a voi. Vuoto a rendere, potete leggerlo su 7 di questa settimana. Ciao e buon sabato, adesso l'Europostit, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Nudisti di tutto il mondo, andate in Francia. Secondo TripAdvisor, infatti, la spiaggia migliore del mondo per i nudisti si trova proprio in Francia, a Cap d'Agde. In questa cittadina del sud della Francia c'è una vera comunità di nudisti che amano girare senza indumenti anche quando vanno in bicicletta o a fare shopping. Al secondo e terzo posto ci sono una spiaggia tedesca sull'isola di Sylt e una greca a Santorini. L'altra Europa. Siamo qui per raccontarvi l'Europa attraverso le persone, attraverso le storie, attraverso le notizie più importanti della settimana e anche attraverso nuove sfaccettature, come quella che veniamo a presentare ora. È una rivista, è un mensile, è Monocle, è il suo titolo, è un mensile in lingua inglese, molto chic, molto raffinato, si trova anche in alcune edicole qui a Milano, per esempio, non è difficile trovarlo, racconta tutto ciò che è trendy, tutto ciò che è nuovo, tutto ciò che fa tendenza in Europa, e una sorta di provocazione che hanno fatto in questo mese estivo, hanno detto non c'è niente di più scomodo che leggere un giornale in spiaggia con l'iPad, e quindi hanno deciso di pubblicare un numero speciale della rivista tutta legata al Mediterraneo, rivista cartacea, una sorta di tabloid da potersi leggere tranquillamente sotto l'ombrellone. E abbiamo sfogliato la rivista, ci è piaciuta, ha una storia dietro molto bella perché il suo direttore è un personaggio, quindi abbiamo convocato qua con noi Ivan Carvalho, corrispondente da Milano di Monocle. Ciao Ivan! Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Tra l'altro, scuse, prima di andare a parlare della testata, ho una nota biografica che ti presenta così. Ha padre portoghese, madre inglese, è nato in California ed è sposato con un'italiana. Sì, giusto. Quindi credo ci sia un po' di confusione linguistica, almeno nella tua famiglia. No, sì, in California sempre in inglese avevo parlato, però sì, è un po' come il nostro lettore, siamo una rivista con un target molto, cosmopolita, quindi ci sono gente che sono magari neapolitani che lavorano a Londra, che sono sposati con svedese, e quindi il nostro giornale parla di tanti argomenti, è molto globale come visione, quindi io sono molto rappresentativo, diciamo, del sì. lettore. Ah, sì, sì, il tuo curriculum è perfetto per lavorare in questo giornale. Che voi lo presentate come? Se qualcuno vi chiede di parlare di Monocle, come lo descrivete, come lo tratteggiate? Beh, è un mensile che parla di attualità, di affari, di cultura, design, è molto trasversale. Si può trovare in intervista con l'ambasciatore di Afghanistan, parliamo di piccole imprese che lanciano anche in questi mesi, quando ancora si parla della crisi, magari un artigiano che vuole fare le scarpe, o uno in Libano che ha una banca che ha deciso di investire in modo diverso di quelli grandi. Della cultura parliamo spesso di quotidiani, perché noi crediamo molto nella carta ancora come un'opzione, è molto valido, anche se noi abbiamo internet, abbiamo un podcast ogni settimana, però crediamo che, come con questo progetto per l'estate, abbiamo deciso di fare una quotidiano di formato tabloid, perché sotto l'ombrellone, secondo noi, è sempre meglio la carta invece dell'iPad. Quindi, insomma, siete cool, siete avanti, siete trendy, però la sana carta, almeno sotto l'ombrellone, la preferite all'iPad. E tu di cosa ti occupi? Cosa scrivi? Beh, corrispondente di Italia, quindi copro tutti gli argomenti qui in Italia, dalla politica al design, poi spesso vado a fare servizi anche nella Svizzera, per esempio, e poi un po' di tutto, come nella rivista è molto trasversale, quindi parliamo di tanti paesi, normalmente in un numero magari ci sono reportage di 30 paesi, diciamo. E come mai che avete scelto proprio il Mediterraneo come focus di questa vostra edizione estiva? Beh, abbiamo la relazione a Londra, abbiamo un gran parte dei giornalisti sono in Europa, anche se c'è gente a Tokyo, anche a New York e tra poco anche a Hong Kong. Poi l'estate per tanti, no? È il mare e il Mediterraneo in primo piano. E per noi è anche un momento di anche parlare di posti come la Grecia, che magari tutti vogliono parlare della crisi. Mentre noi abbiamo deciso di parlare di cose, come la Grecia può reagire in questo momento, quali sono le cose, per esempio, come mai la cucina greca e trattorie non possono lanciare come in passato trattorie italiane o la tapas spagnola, che sono cose già conosciute in tutto il mondo. Cerchiamo sempre di trovare le opportunità, perché sono spesso nei momenti di crisi quando ci sono il momento di reagire e trovare innovazioni, di magari trovare una nuova strada. In passato, in questi mesi, abbiamo anche parlato di magari gente che hanno lasciato il lavoro nella banca per buttarsi su una nuova strada, di aprire un albergo o fare magari una piccola collezione di abbigliamento. Quindi, insomma, storie di chi non si piange addosso, ma cerca altre soluzioni per la propria vita. E c'è un bellissimo servizio tuo sulle piccole radio indipendenti che hai trovato in giro per il Mediterraneo, e credo tu ti sia anche divertito. Poi c'è una sorta di classifica che è uscita, e non so se è in questo numero o in un numero precedente, sulle città in cui si vive meglio. Avete escluso Milano, vero? Beh, la classifica che ogni anno per il numero della rivista, adesso parliamo luglio-agosto, nella rivista ogni anno abbiamo la classifica di qualità della vita. E sì, le città italiane purtroppo in questi anni non riescono a arrivare nella lista, perché ci sono diversi fattori. I parametri sono un misto di cose qualitative e quantitative, quindi infrastructure, trasporti, anche per esempio a Milano, anche se hanno fatto un passo avanti con i bici in noleggio, mancano ancora le piste per piste ciclabili, perché, certo. È così che Milano, essendo piatto, deve essere facile di andare in giro, e poi il numero di macchine per abitante è, credo, intorno a 60-65 per 100 abitanti, che E poi gli spazi sono non come magari in California, dove sono vissuto per anni, e quindi diventa un po' chaotico, diciamo. Sono un po' di queste cose, il cura degli spazi verdi, anche i trasporti per i treni, per quelli che devono arrivare o fare spostamenti suburbani, queste cose. Insomma, quindi sono parametri che insomma, hanno spinto Milano in fondo a questa classifica, che dove Milano, città in cui tu però vivi bene, questo lo puoi dire? Sì, io trovo Milano un ottimo posto per tanti, tanti motivi. C'è un grande incontro tra design, editoria, finanza, e quindi c'è una bella fermentazione culturale, anche attività, imprese. Magari nei prossimi anni vediamo, credo con alcuni aggiustamenti, magari con più collegamenti con il treno per Malpensa, con un nuovo, magari con l'Expo 2015, magari ci saranno progetti di integrare in modo diverso magari le cittadini. Quindi insomma la mobilità al centro di questa nuova Milano che tu ti immagini. Grazie davvero Ivan, magari in una delle prossime puntate dell'Altra Europa ci vieni anche a trovare in diretta, così insomma ci piace fare contaminazione di culture europee e credo che i tuoi stimoli possano essere interessanti. E c'è un sito, vero? Ce lo vuoi ricordare? Sì, è monocle.com. Il quotidiano sarà anche in edicola in queste settimane, costa 5 euro. Poi abbiamo un podcast ogni settimana sul nostro sito. Ok, insomma questo è il modo, le coordinate per trovarvi. Ciao, grazie, buon sabato. Ciao, grazie. Europost-it. Cercasi Sirenetta. Per la prima volta nella sua vita, cioè dal 1913, la statua della famosissima Sirenetta di Copenaghen lascerà il suo scoglio il 2 agosto per una trasferta all'Expo di Shanghai. E a Copenaghen si cercano sostituti umani, anche maschili, che abbiano voglia di prendere il posto della statua. Ogni candidato potrà esibirsi come crede, ma dovrà farlo durante un intervallo di tempo stabilito. Tra tutti i sostituti concorrenti verrà scelto un vincitore, che sarà festeggiato il 23 agosto, il giorno in cui la statua farà ritorno in patria. E con la musica Rome di Alexian e Santino Spinelli entriamo nel prossimo argomento, andiamo in Francia. Francia, giro di vite sui Rom, chiuderemo 300 campi illegali. È la svolta di Sarkozy, vuole espellere gli irregolari partendo proprio dai nomadi e dalla comunità Rom e dalla comunità dei gitani. È una decisione presa da pochi giorni, è di venerdì la notizia, in seguito a una notte, il 17 luglio c'è stata questa due giovani Rom hanno forzato in auto un blocco della polizia che aveva poi sparato uccidendone una. C'è stata una sorta di rivolta in seguito a questa è stato deciso appunto di chiudere i tanti campi illegali della Francia. Per capire la situazione, per capire quello che sta succedendo, abbiamo invitato Francesco Piccinini, che è direttore di Agora Vox, un portale di giornalismo partecipativo. Ciao Francesco. Salve, buongiorno. Buongiorno Francesco, nessuno meglio di te ci può presentare Agora Vox in sintesi. Che cosa rappresenta questo portale per il sistema comunicativo francese? Beh, Agora Vox è dal 2005 uno dei portali più importanti nel sistema dell'informazione francese, raccoglie 1,5 milioni di lettori e circa 50.000 cittadini che ci scrivono, e è la seconda fonte di notizie online dopo Le Figaro. E da quando sono scoppiate le rivolte stiamo seguendo tutto quello che succede e anche le evoluzioni politiche degli ultimi giorni. Quindi i cittadini sono i vostri corrispondenti di fatto? I cittadini che portano le notizie in redazione sul sito. E voi fate una sorta di filtro, di aggiustamento di questi test? Il filtro viene fatto da una parte dai cittadini stessi, ovvero dai moderatori, tutti quelli che hanno scritto più di 5 articoli con una valutazione positiva, che rileggono gli articoli prima che vadano online, e poi dalla redazione centrale che è a Parigi. Ecco, e immagino che ci sono argomenti come questo dei Rom che vanno a toccare comunque particolarmente la sensibilità dei cittadini corrispondenti, quindi in tanti hanno scritto. Qual è la situazione? Ci puoi dare una descrizione oggettiva di quello che sta accadendo, di quelle che sono le scelte politiche e anche quelli che sono i commenti invece dei tuoi giornalisti? Beh, il problema è ampio, anche perché ovviamente, come puoi ben immaginare, su una discussione del genere la cittadinanza è abbastanza spaccata. Ci sono le persone che da una parte riportano quelli che sono i commenti della polizia, ovvero una polizia che si sente sempre più sotto tensione, e dall'altra la critica all'attuale sistema politico francese, che non riesce a trovare una soluzione organica che non sia quella semplicemente di opporre uno stato di polizia ancora più forte. È veramente un momento importante, anche se vuoi di innovazione profonda all'interno della società francese, anche in seguito alle dichiarazioni di ieri di Sarkozy durante l'insediamento del prefetto di Grenoble, nel quale ha proposto di togliere la cittadinanza francese a tutte le persone che commettono un crimine, agli stranieri che commettono un crimine, e questo fa venire meno uno dei principi della liberazione, che era la parità tra i cittadini francesi, tra virgolette, di sangue e gli immigrati. Ecco, ma i Rom come capro espiatorio, o c'è veramente un problema legato a questa comunità? Guarda, io te lo dico anche per esperienza di chi l'ha vissuta. Ho studiato a Bordeaux e all'interno del campus c'era un insediamento Rom che veniva durante l'estate. Per lunghi tratti è stata una convivenza anche molto pacifica. Considera che molti cittadini Rom sono cittadini francesi spesso. E c'è stato negli ultimi anni un inasprimento di quelle che sono soprattutto i rapporti tra la polizia e tutte le popolazioni immigrate francesi, che ha portato a queste frizioni e ha portato spesso anche a una mancanza di rispetto dei cittadini verso la polizia. Il fatto che non sia fermato al posto di blocco è un tipico esempio della paura che in questo momento si vive verso il controllo della polizia. Sono tanti e non ci sono soluzioni alternative. Ci sono anche campi legali, Francesco, in Francia, per ospitare i gitani? Ci sono delle aree che sono state individuate, presso le quali dovrebbero essere state inserite le popolazioni gitane. È una legge che è in discussione, se non sbaglio, dal 2005, quindi sono 5 anni che si cerca di individuare in una maniera definitiva delle aree presso le quali alloggiarli. Purtroppo per un motivo o per un altro è sempre stato rinviato, o comunque non è mai stato reso effettivo. E da qui anche un certo astio delle popolazioni verso quello che comunque questo rapporto conflittuale spesso. Tra l'altro i Rom, insomma, sono 400.000 in Francia, ma sono 700.000 in Spagna, sono 140.000 in Italia, 600.000 in Ungheria, 100.000 in Germania, 300.000 nel Regno Unito. Sicuramente è travagliata la loro storia, è travagliata la loro attualità, ma è una di quelle scelte, una di quelle decisioni che deve essere proprio l'Unione Europea in questo caso a prendere una decisione comune, perché è inutile sballottarli da una nazione all'altra, non è certo quella la strategia, la soluzione, anche perché si parla di illegalità, ma come in ogni società sono alcuni, cioè ci sono tantissimi Rom, io ne conosco tanti in Italia avendoci lavorato insieme, che sono persone assolutamente serie e vicine alla legalità. Non voglio ovviamente difendere chi ruba, ma non tutti rubano, assolutamente. Assolutamente, anzi ci sono tantissime interviste che sono state rilasciate in questi giorni dalla comunità Rom, che non sopporta questo accostamento tra l'essere gitani e l'essere dei ladri. Ovviamente è una cosa assolutamente sbagliata, e se mi permetti, il vero problema che è emerso in questi giorni è un altro: il fatto che negli stessi giorni in cui sono stati gli scontri a Saint-Aignan ci sono stati degli scontri a Grenoble nelle banlieue. Quindi è stato fatto all'interno del calderone mediatico, sono state messe, diciamo, tutta la popolazione immigrata francese, messa sullo stesso livello, e quindi confusi assolutamente i due piani. C'è anche una grossa responsabilità dei media che hanno unito questi due eventi. Agoravox.it è il tuo portale, ma possono collaborare anche i cittadini italiani, nel senso, voi siete a Parigi, parlate della Francia, ma parlate anche dell'Italia, giusto? La versione francese agoravox.fr si occupa della Francia, la versione italiana IT si occupa dell'Italia, su cui ci scrivono ad oggi 3.500 cittadini. Ti trovi bene a Parigi, Francesco? Molto bene, il clima non è dei migliori a volte, però molto bene. Dai, non lamentarti, su, ok. Grazie davvero, buon lavoro, ciao. Grazie, buon sabato, te, ciao ciao. Europostit. insolite rock star. La Decca Records, casa di produzione di artisti come Rolling Stone, Eminem e gli U2, ha firmato un contratto con le suore benedettine francesi dell'abbazia di Notre-Dame de l'Annunciation ad Avignone. Le sorelle sono state scelte dal marchio discografico dopo una lunga ricerca di cori femminili gregoriani e il loro album debutto si intitolerà Voci, Canti d'Avignone. L'altra Europa. Continuiamo a parlare d'Europa e lo facciamo con una storia, perché l'Europa può essere anche vissuta, può essere attraversata, può essere toccata con mano e soprattutto con i piedi, perché vi stiamo per raccontare un viaggio, un lungo viaggio, una sorta di migrazione al contrario. E si chiama Guido Bertoletti, è un pensionato, però con la passione dell'escursionismo e la sua famiglia è emigrata tanti anni fa. Lui ogni anno torna in Italia per salutare i parenti, ma questa volta, per la prima volta, ha scelto di farlo a piedi, camminando per 1200 chilometri in 100 giorni, mi pare, se non erro. Qua con noi Guido Bertoletti. Ciao Guido. Ciao, sono qui. Ma 1200 chilometri in 100 giorni? Infatti sono quasi 900. Sono quasi 900, ok, avevamo un po' esagerato. E sei partito da dove? Da Romba, è una località vicino a Metz. E quindi ci troviamo in quale zona? Il nord-est della Francia. Sì, e sei partito da lì perché vivi lì? Sì. Mm-hmm. Sì. Da quanto tempo? Da 53 anni. Ah, quindi da bambino. Avevo 5 anni quando i miei genitori hanno deciso di emigrare. Mm-hmm. E dunque avevo quell'idea lì da tanti anni, ecco, e l'ho realizzata. Quindi la partenza da Metz e l'arrivo dove? Perché l'Italia è grande e tu avevi un paese. Mio padre sta a Cavaillon Veronese, sul lago di Garda, vicino a Bardolino. Ah, ok, quindi nord Italia ti è andata anche bene, nel senso, ecco, che se era Puglia o Calabria era peggio, perché dovevi aggiungere diverse centinaia di chilometri. E hai scelto di venire a piedi per la prima volta, una scelta impegnativa, perché insomma è stata una lunga scarpinata, però ti ha permesso di attraversare parte dell'Europa, di vederla giorno per giorno. Sì, sì, sì, vedere quel cammino che io ho fatto parecchie volte col treno o con la macchina, a piedi, metro per metro, è stato anche commovente qualche volta. Cos'hai raccolto? Che incontri hai fatto? Ah, rincontri, tanti ricchi, tante persone che domandavano perché non vai con la macchina, dove l'hai messa la macchina, ce l'ho a casa, perché no, non capivano la mia volontà di fare questa camminata, insomma. Ecco, questa voglia di tornare in Italia, tu sei tornato tante volte, però l'hai fatta a piedi proprio come una sorta di ringraziamento, rivivere al contrario quella migrazione, sì, che ti ha portato in Francia. Così. Ma tu ti senti ancora migrante dopo così tanti anni, no? Sì? Mi sento sempre italiano un poco, anche se adesso di cultura sono più francese di italiano, mm-hmm, perché purtroppo a 5 anni non sono andato tanto a scuola in Italia. Certo. Quindi... Però la mia cultura è francese adesso, penso francese, ma mi sento sempre con le radici qua, insomma. Ecco, e avrai avuto modo di pensare tanto in queste ore di cammino, anche tra le differenze tra la tua Francia e la tua Italia. Sì, sono sì, due nazioni che si assomigliano? Sì, si assomigliano tanto, sono due nazioni latine, sono... Purtroppo ci sono tante differenze anche sul modo di vivere, di mangiare, come dire. Sì, insomma, sono due stili paralleli, sì, che hanno, sì, sì, punti di contatto. Ma tu hai cercato la via più breve o hai fatto una sorta di itinerario turistico? No, io ho voluto fare l'itinerario il più vicino possibile della strada che io chiamo di migranti, vuol dire la strada che va di Milano Chiasso, andare su dal Gotardo verso Lucerna e Basilea, entrare in Francia a Basilea e dopo Mulhouse e Metz, insomma, è quella strada che conoscevo io di più. Volendo passare nei quei posti che ho sentito nominare come Andermatt, vicino al tunnel e compagnia. E hai trovato tracce di questi migranti? Nel senso che queste zone vivono ancora di migrazione o comunque del ricordo della migrazione, o è stato cancellato quel passato? È stato cancellato, ma tutti i miei amici italiani che sono lassù la conoscono bene questa strada, perché è la strada delle vacanze, la strada del ritorno dell'Italia, insomma, si può dire quasi la strada degli italiani che vengono anche dal Belgio, dalla Germania, passano di lì. Ma attraverso la Svizzera. Guido, la tua storia è simile a quella di tanti altri migranti. Non ti fa essere completamente italiano, non ti fa essere completamente francese, ma questo spirito europeo lo si vive, sì, o si rimane aggrappati comunque alla propria identità, in questo caso la doppia identità? Io mi sento con la doppia identità, perché di cultura sono francese, ma come vi dicevo prima, le mie radici sono italiane, mi chiamo Guido, insomma, Bertoletti, no? Non si può essere francese con un nome così, e comunque in Francia mi dicono che sono italiano e in Italia mi dicono che sono il francese che arriva, vedete, mi fa anche un po' sorridere. Guido, tra l'altro, adesso al di là di questa sorta di pellegrinaggio laico che hai compiuto, hai trovato il modo anche per far fruttare questa tua doppia nazionalità, accompagni escursionisti qua in Italia. Adesso sì, tu rimarrai in Italia per accompagnare amici francesi su varie montagne, vero? Sì, sì, perché sono anche come si dice, una guida escursionista in Francia, ci ho fatto un diploma, sono presidente di un'associazione di escursionisti là, e insomma ho messo a posto un soggiorno di una settimana sul lago di Garda e sul Baldo, e sono parecchi i gruppi che mi chiedono di accompagnarli qua, sono già 17 gruppi che porto qua in giro sul Baldo e il lago di Garda, paesi adesso che conosco bene. Okay, e dopo, per riposarti un po', andrai a Santiago, di Compostela, sempre a piedi? Sempre a piedi, con i miei amici del Canada francese che mi aspetteranno il 18 agosto. Partendo da dove questa volta? Da San Sebastián, sì? Facciamo la via del norte, così chiamata, è la via lungo la costa dell'Atlantico. E quanti chilometri sono? Sono anche là quasi 900. Perfetto. Insomma, ecco, 38 giorni ancora là di cammino. Ecco, quindi l'Europa da fare a piedi, questa è un po' la tua, sì, ricetta per fare una nuova cultura legata al continente. Già tanto i sentieri di Santiago sono stati riconosciuti dalle istituzioni europee come cammini che sono cammini dell'unità europea. Sì, esatto, quindi insomma sono vie anche dall'UNESCO. Vie privilegiate. Grazie, sì, grazie davvero Guido per averci raccontato la tua storia, e buona camminata, non vedo augurio migliore insomma per salutarti. Buon cammino, ci dice un pellegrino. Buon cammino a te, ciao Guido, grazie. E con Guido chiudiamo questa puntata dell'Altra Europa, e vi ricordo che potete riascoltare le puntate in podcast dal sito radio24.it, oppure potete scriverci l'altraeuropa@radio24.it. Un grazie ad Alba Chiara Rondelli che con me ha scritto la puntata, ad Anita Panizza in redazione, a Peter Bescapè alla parte tecnica. Con l'Altra Europa ci ritroviamo sabato prossimo alle 10, io invece sarò qua con voi domani alle 17 con Mine Vaganti. Ciao!